Ecco, ringrazio tantissimo la professoressa Sironi De Chiusole Marta, che conosciamo da tanti anni, che frequenta la nostra biblioteca e che è sempre una fucina di idee, di progetti, ma soprattutto riesce a catalizzare l'attenzione di tante persone che la seguono, e la prova è questa. Che è bravissima. Esatto. Se no non la seguiremmo. Ecco, infatti. Vero? Marta, e... siamo sinceri. Da tempo con l'UPAD è stato avviato appunto questo progetto dell'autobiografia, che è una, diciamo, una nuova direzione che sta prendendo in piede in Italia. Diciamo che i precursori sono in Toscana, cioè a Pieve Santo Stefano, la famosa università dell'autobiografia. Abbiamo avuto Duccio Demetrio parecchie volte, che è venuto qui in Alto Adige, ha fatto scuola, sta portando avanti da anni questo discorso. E l'autobiografia e la memorialistica sono sicuramente degli aspetti interessantissimi, perché da una parte, e lo abbiamo anche visto con le iniziative di questa biblioteca, forniscono dei tasselli indispensabili per fornire un quadro anche storico di alcuni avvenimenti, ma dall'altra sono utili anche per la comunità e anche per la persona che la comunità forma. Ecco. Quindi, diciamo, ha una duplice funzione, e non è sempre facile ricorrere all'autobiografia, ma una volta che si abbraccia anche questa linea, i vantaggi si trovano, e soprattutto l'abbiamo visto anche recentemente come parecchie persone riescono a superare degli scogli e iniziare a ripercorrere il proprio percorso, le proprie storie, e restituire anche alla collettività, condividendoli, degli aspetti bui e anche dolorosi, perché per esempio se penso al Festival delle Resistenze, a chi anche ha restituito parti della propria vita, che fanno un percorso per esempio nei lager o comunque altri episodi significativi, la comunità ne ha fatto tesoro, però sicuramente il percorso non è stato facile. Però insomma, l'autobiografia può essere anche qualcosa di più divertente, e non solo sempre un ripercorrere una vita dolorosa, può essere anche piacevole, e può essere piacevole anche così donare i propri ricordi alle persone, ai propri familiari o agli amici, o anche come questa sera a una biblioteca. Ogni volta parlo della biblioteca e me la dovete perdonare, però fa parte del mio lavoro. Sulla biblioteca sei tu! È un lavoro in cui credo, e credo anche ai miei collaboratori, per cui devo sempre aprire un piccolo siparietto sulla biblioteca, perché siamo fortemente convinti che sia una struttura forse la più democratica e aperta che esista. È sovvenzionata dalle tasse di ciascuno di noi, però offre dei servizi gratuiti, ed è un'officina, l'abbiamo definita noi, questa in particolare la vogliamo definire un'officina della resilienza, cioè mutuando dal campo ingegneristico il concetto di resistere in maniera flessibile ad ogni urto e ad ogni difficoltà, questa biblioteca vuole essere veramente un'officina di resilienza, dove chiunque in qualunque momento può venire, chiedere qualunque cosa, noi ci adoperiamo in maniera tale che inizi un percorso per raggiungerla o per trovare l'informazione che desidera, che gli serve, campo professionale, interesse personale. E abbiamo visto che in questi mesi questo tipo di servizio ha portato a questa biblioteca parecchie persone, e di conseguenza le persone hanno avuto dei giovamenti. È un periodo difficile, questo lo sappiamo, è sotto gli occhi di tutti, però anche siamo convinti che anche dalla cultura, anche da un percorso individuale libero, con i mezzi pubblici si possa veramente superare ed avere degli orizzonti anche un po' più ampi, insomma, e capire e individuare le strategie e le strade da seguire. Bene. Questo era semplicemente per dire che qui ci sono libri, computer, corsi eventualmente di alfabetizzazione per usare internet, incontri estivi per non essere così, per non perdere il contatto con le iniziative. La mattina ci troviamo dalle 9 alle 10 una o due volte alla settimana, beviamo qualcosa di fresco e abbiamo comunque un libro da leggere, una persona che viene a portarci, ad esporci un argomento che possa essere collegato alla nostra collezione. Quando inizia quella del mattino? Ma in giugno, con la metà di giugno, appena finiamo le iniziative serali, incominciamo i mattine ecco. E poi in autunno, in settembre, con l'inizio della scuola, riprenderemo con gli appuntamenti bisettimanali, lunedì e giovedì di solito alle ore 18. Sulle sedie abbiamo lasciato le cartoline del prossimo appuntamento, che ha un sapore squisitamente scientifico, perché da aprile abbiamo iniziato anche un percorso di tipo così scientifico. Stefano Osso è un professore di fisica teorica dell'Università di Trento e ci aiuterà in termini meno, diciamo, cattedratici e più divulgativi ad introdurci in questo mondo della fisica teorica, che è veramente molto affascinante. Senti, ma quello, senti, ma quello dello streaking quando è? Esattamente giovedì. Io sono una grande esperta di streaking. Ecco, allora sarà l'occasione di un bel testa a testa tra la professoressa Mariolina Frankel. E, no, è anche molto aperto al dibattito, quindi chiaramente benvenga, insomma. E poi proseguiremo. Lasciamo sempre anche un modulo di iscrizione. L'iscrizione è gratuita, i servizi sono gratuiti. Non esiste tessera, semplicemente la tessera per questa biblioteca è il codice fiscale che abbiamo tutti noi, la tessera sanitaria. Questo ci permette semplicemente di potervi dare in prestito quello che c'è e soprattutto tenervi costantemente informati con queste cartoline o delle mail sulle nostre iniziative. Perfetto. Ecco, grazie. Io ringrazio la professoressa Sironi, tutti voi che avete collaborato anche al progetto, e saluto anche Elena da Dio che ho visto entrare. Ecco. Ecco. Grazie. E vi ringrazio della collaborazione e della partecipazione. Grazie. Grazie. Grazie. Siamo noi che ringraziamo lei per l'ospitalità, con l'abituale cortesia con cui ci accoglie, e non soltanto, la grandissima preparazione, per cui vi siete già accorti che questo non è una normale biblioteca, ma è un salotto dei libri, e dei libri non ci libereremo di certo. Ecco. Un grazie a tutti quelli che sono intervenuti, un grazie particolare ai miei amici scrittori. Lo scrivere per noi è stato accorgerci che c'è un valore importante, cioè quello di stare insieme, di scambiare confidenze, preoccupazioni, dispiaceri, gioie, un fatto di aprirsi agli altri, ma nello stesso tempo di ricevere dagli altri moltissimo. Per noi è importante comunicare, e difatti siamo un gruppo che sente, se non riusciamo a riunirci, sentiamo la mancanza gli uni degli altri. Per cui io ringrazio tutti di essere intervenuti, ma soprattutto quelli che mi hanno reso la vita leggera in questi anni in cui ho potuto due volte al mese stare con loro, raccogliere i loro scritti. Io non ho nessun merito se non quello di aiutarli a raccogliere gli scritti. Ecco. Grazie. Ognuno di loro meriterebbe un discorso a parte. Tante sono importanti le loro vite, i loro sentimenti, i loro ricordi, i loro trascorsi. Lascio però parlare loro attraverso le loro scritture, e così cominciamo subito. Io li invito man mano a venire qui, il mio compito è soltanto quello di dirvi l'ordine in cui venite, e cominciamo con Antonino Schipilliti. Se ti vuoi sedere, mettiti. Non c'è un coso? No, ma tanto siamo in piedi. Non ci siamo senza girarti. Questa volta. Mi devo mettere al centro? Mettiti dove vuoi, basta che tenete alta la voce e tutti così sentiamo tutto quello che avete. Posso chiedere una cosa? Siccome siete numerosi, noi di solito registriamo con un piccolo registratorino le iniziative e poi le mettiamo in podcasting sul nostro sito. Se qualcuno non vuole, ce lo dica, ecco, magari evitiamo di registrare quella parte, oppure cancelliamo la registrazione. Però se avete piacere, ecco, se ci lasciate, si può riascoltare per chi non è riuscito a venire questa sera. No, sono cose loro, e quindi se loro hanno piacere per me va benissimo. Io non ho problemi, anzi, è un piacere in più. Schipilliti, leggi bello forte però. Questo scritto è tra la prosa e la poesia. Vedete voi dopo dove vi capita, no? La nuova terra, si sente bene? Sì. 60 anni fa, dal caldo del meridione, vennero nella terra fredda i meridionali. Allora i meridionali per gli abitanti del nord Italia erano classificati come oggi gli extracomunitari. Furono guardati a vista dai sud tirolesi, quelli dai grembiuli blu, uguali a quelli dei calzolai. I sud tirolesi, come se avessero visto extraterrestri al posto dei meridionali, gli dettero a tutti un solo nome, i terroni. I calabresi non sapevano pronunciare nomi di persone a sud tirolese e per semplificare li chiamarono tutti crucchi. Lo hanno imparato dopo la guerra del 43. I calabresi hanno lasciato nella terra dove sono nati moglie e figli per venire in questa città di montagne con la tipica valigia di cartone di quei tempi, chiusa con un filo di spago con dentro quattro stracci e qualche sapore del paese. Oh, che bellezza per il terrone! Si sente libero e forte come un leone in una terra dove non ha parenti per cercare la tipica sud tirolese dalle trecce da paese. Molti sogni perversi gli sono svaniti in questa terra di serietà. Hanno trionfato del lavoro, della casa. Con il tempo, con valigie un po' più moderne, altri parenti scesero dal treno per fare compagnia a chi era solo nell'appartamento. Il nome terrone è andato via di moda. Anche il crucco fece lo stesso ed ad ognuno il suo Natale, forse ad ogni parte detto un po' male. Oggi c'è dialogo tra la gente. Due fratelli, Peter e Mario, sono uno biondo e l'altro bruno, con accenti misti, sud tirolesi da madre e calabresi da padre. Bello. Cancerosi. È vero. Bravo, bravo. Io gli amo tanti. Mi ricordo. Ricordi di un giorno d'estate. A me piace il mare. E allora scrivo sempre qualcosa. Anche a mano si sente. Alza la voce. L'odore del mare e dello iodio mi sono entrati in ogni membra quel giorno. Il rumore delle onde e quello dei bambini che giocavano a riva con la sabbia umida a fare castelli e poi il vento che accarezzava i miei capelli e la mia pelle ancora fredda dell'inverno godeva di quel calore dandomi quella sensazione di pace. Era il primo giorno d'estate, giorno in cui le scuole finiscono e i bagnini riaprono i loro stabilimenti dando vita alla spiaggia. E dopo il lungo silenzio invernale, rotto di tanto in tanto dallo stridio dei gabbiani e dalla risacca delle onde. Quel giorno soffiava un vento tiepido, non afoso e fastidioso, ma un vento dolce che portava con sé tutta la tranquillità estiva che stava per sbocciare. Quel giorno mi sono innamorata della vita e della sua straordinaria imprevedibilità e bellezza. Le stagioni cambiano lentamente, si trasformano dall'una all'altra con continuità. Io invece solo quel mattino mi sono sentita avvolta dal caldo al braccio di un vento portato dal mare, improvvisamente come una nuova coscienza. La vita agisce con la continuità delle stagioni. A volte gli eventi irrompono e interrompono il placido corso e poi riprendono con il ritmo immutevole, immutato nella circolarità serena del divenire. Brava. Mattevi. Vedete che sono bravissime. Brave. Sono proprio brave. E guarda, avevo lasciato il posto. Ah sì, grazie. Allora sto in piedi perché se mi siedo non mi vede più nessuno. Brava, brava. Mi piace. Allora, respiro perché sennò... Siamo anche simpatiche. Per ritemprare lo spirito, mentre cercavo di far riemergere le mie pur scarse doti di giardiniera contadina delle mie origini, mi frullavano continuamente in testa le parole della mia cara professoressa Marta De Chiusole: scrivete, scrivete, scrivete tutto, che poi quando ci ritroveremo sarà bello leggere tutti assieme. Scrivere cosa, pensavo, mentre cercavo di trapiantare quei meravigliosi gigli di montagna. Ecco, mi dissi, potrei descrivere la loro bellezza. Sono arrivata quassù, la prima decade di luglio. Montagna ero, non al mare. Sentiamo. Trovando l'aiuola stracolma di gigli in piena fioritura, una meraviglia di colore arancione, il colore del sole, nonché il mio tra i colori più belli. Pensavo di scrivere quando il tempo non fosse più così bello da permettere di stare sempre all'aperto. Invece le giornate si susseguivano una più bella dell'altra. Il cielo è di un blu cobalto, l'aria è tersa. Il bosco che mi circonda è di ogni gradazione di verde. Quindi il tempo ideale per godersi la natura in montagna, nonché per finire il mio lavoro di trapianto. Lungo il muro di cinta avevo piantato dei cespugli di fiori rosa fucsia, che ora sono tutti in fiore, una gioia per gli occhi. In fondo al praticello c'è una piccola rampa, ecco, lì ho fatto il mio lavoro di trapianto. Tra qualche anno si avrà l'esito del mio lavoro. Spero proprio di vederne il risultato. C'è un silenzio intorno, rotto soltanto da qualche trattore che porta il fieno a casa, oppure da qualche conoscente di passaggio con il quale scambiarci qualche commento, magari di autoironia sulla mia capacità di giardiniera. Certo, pensando al mare dove ero prima, a Cattolica, la differenza è abissale. Tutta quella gente, suoni e rumori di ogni genere, mentre quassù sembra l'ideale per ritemprare lo spirito. La località dice tutto. Lago Santo, a 1208 metri sul mare, un grazioso laghetto circondato da un bel prato sul quale nelle calde domeniche estive si popola di tantissima gente che prende il sole. Tra le piante del bosco c'è la nostra piccola casetta, fatta con sacrifici, ma dotata di tutto il necessario. Quando i bambini andavano a scuola, tutte le vacanze le trascorrevamo quassù. Ora tutto è cambiato. Tanti impegni, altre mete, ma quando possono, vengono volentieri. Intanto io mi diletto a tosare i miei cespuglietti, cercando di dar loro una forma più o meno arrotondata. Quando scendono le prime ore della sera, le prime ombre della sera, mi limito a chiudere il mio piccolo maniero, fantasticando sul nuovo giorno che verrà, non permettendo mai di lasciarmi prendere dalla nostalgia di quei bei tempi che ormai sono volati via. Bello. E adesso Dino Mar, il quale ha previsto che doveva venire Carosello per farci piacere, ma lui lo sapeva già qualche tempo. L'avevano detto qualche mese fa. Qualche mese fa. Carosello. Allora, vi leggo la storia di Carosello. Il ritorno di Carosello. Qualche tempo fa in televisione si annunciava il ritorno di Carosello, la famosa trasmissione di pubblicità che ha segnato un periodo felice della TV italiana e che viene ricordato quasi fosse stata l'età dell'oro dell'umanità. Ricordando quei tempi andati, pensi quasi sia trascorsa una vita, anche se a pensarci bene una vita è passata davvero. Sono trascorsi 50 anni durante i quali non solo la nostra vita è cambiata, ma tutto il mondo è cambiato e non sempre in meglio. È vero, ci sono un sacco di comodità in più, un sacco di possibilità in più, sei frastornato dalle novità, dalle alternative, dalle occasioni, ma per me anziano è tutto troppo. Non arrivo più ad assimilare tutto questo e un po' ne ho paura. Tutte queste novità mi sembrano quasi dei mostri che invadono il mio mondo e dai quali non so difendermi. Il mondo che ho vissuto io era tranquillo al confronto, probabilmente era la mia mente più sveglia che riusciva a metabolizzarlo. Per la verità, tranquillità negli ultimi 50 anni ce n'è stata poca. Forse lo sviluppo era più lento e si riusciva ad abituarsi ai cambiamenti e alle novità. Ora invece è tutto più frenetico. Le novità e le scoperte si accavallano le une le altre, non si fa in tempo a catalogarle, che ci sono altre cose che si sovrappongono e non fai più in tempo a memorizzarle, a sistemarle nella tua testa e tutto ti crea una grande confusione. Tutte queste considerazioni valgono anche per la pubblicità televisiva. Il famoso carosello era confezionato con 5 spot di 2 minuti, erano scenette recitate da bravi attori, supportate da musichette accattivanti. Molte di queste scene sono diventate famose con modi di dire o battute che si ricordano ancora. Era la trasmissione che anche i bambini potevano vedere e che per loro segnava l'ora di andare a letto. L'avvento delle televisioni private, che traggono le loro risorse dai premi pagati dalla pubblicità, ha segnato la fine di quel mondo e di quel modo di fare pubblicità che per parte sua è diventata aggressiva e invadente. Lo spettatore si difende come può, cambia canale, ma gli strateghi della pubblicità hanno trovato il modo di inseguirlo dove non possa scappare. Ad ogni sotterfugio dello spettatore rispondono con nuove strategie. Sembra la dimostrazione di una legge della fisica. Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Bene, questa è la situazione attuale e forse siamo già oltre. Si parla di messaggi subliminali inseriti nei programmi e dai quali non puoi difenderti. Ti condizionano a tua insaputa e rimane inerme alla loro mercé. Corriamo il rischio di diventare un popolo di zombie comandati da una mente perversa tesa solo a realizzare il suo interesse. Forse queste sono solo scenari futuribili, ma non è consolante pensare all'abisso in cui rischiamo di cadere. Fanno bene coloro che non guardano le TV commerciali e si accontentano di aver minore scelta pur di poter guardare una cosa tranquilla, senza interruzioni, moleste, e poter rimanere concentrati sulla storia o sul programma che hanno scelto di vedere. Bravo. Bravo. Una poesia. Il sommergibile. Voce. Il sommergibile. In quel momento sarò solo, con la mia coscienza e i miei pensieri, anche se alcune persone attorno a me si daranno da fare con distaccata professionalità, con cavi, tubi, sondini e bottiglie con liquidi che entrano ed escono dal mio corpo, sfruttando ogni orifizio, naturale e non. Il tutto collegato a vari monitor e ad altri strumenti che producono suoni discreti e segnali misteriosi, mentre luci di diversi colori scorrono o pulsano. Sembrerà di essere in una sala giochi per sordomuti o dentro la pancia di un sommergibile. Vivrò la situazione con lucidità e quel tanto di fatalismo derivante dal fatto che non potrà fare nulla per modificarla, al pari di un capretto legato prima della Pasqua. E solo quando avrò la certezza che non ci sarà un futuro, il passato mi apparirà così lontano da essere finalmente innocuo. Esisterà il presente, qualche attimo in cui ancora avrò piena coscienza di me, del mio vissuto e dell'inventario colorato e polimorfo delle mie emozioni. E mentre l'immagine sul monitor diventerà un punto fisso, penserò che non è poi tanto male morire in un sommergibile, anche se, potendo scegliere, avrei preferito trovarmi su un prato fiorito, riscaldato da un sole benevolo, abbracciato a chi mi ha saputo amare. Guardate, è un'emozione vivere con voi, perché dite delle cose incredibili. Rosalba. Ma dopo Galassini. Vabbè. Ognuno per quello che può. Bravissimi. E quella è la nostra. Siete tutti bravi. Dunque, questa è una lunga calda estate del 1912, dell'anno scorso. Vorrei parlare di una bella estate, passata serenamente, e invece la maggior parte dei giorni sono qua, rinchiusi in casa, con le finestre chiuse e le tapparelle abbassate. Odio Caligola, Caronte, Minosse, Nerone e tutti quelli che hanno reso la mia casa un forno. Sono stufa di leggere, di far parole crociate, di vedere le Olimpiadi, di sfogliare quotidiani, dove trovo soltanto notizie angoscianti, morti, distruzioni, incendi, alluvioni e l'economia che va a rotoli. Quante volte negli anni passati avevo sognato una bella vacanza in Egitto, in Turchia. Quest'anno invece i miei desideri sono diversi. Sogno la Svezia, la Norvegia, la Finlandia o qualche piccola isola ancora più a nord. Ma oltre il caldo c'è un problema che forse è più grave, la solitudine. Le mie telefonate molto spesso non hanno risposta. Chi è al mare, chi è in montagna, chi non sta bene, chi deve tenere i nipotini. Molte nonne mi dicono che quando i figli passano a prendere i loro pargoli tirano un sospiro di sollievo, perché pur essendo felici di vederli crescere e di giocare con loro, arrivano alla sera molto stanche. Io penso che questo sia vero, ma sul piatto della bilancia c'è anche il pro, e cioè il sentirsi utili e dare quindi un significato alla propria vita. La mano dei nonni che stringe la manina del piccolo mi fa tanta tenerezza. Anch'io qualche volta vorrei una mano sicura e amorevole che stringesse la mia. Brava! Tutte cose vere. Sì. Sono belle per me. Garrone, Elio. Sono bravi, vero? Bravissimi. E veri. Sono proprio orgogliosa. Luglio 2012, luglio 1954. Sono in vacanza a Milano Marittima. È un tardo pomeriggio, uggioso. Il cielo minaccia pioggia, infatti l'acqua non tarda ad arrivare. Sono al riparo sotto ad un gazebo e gli scrosci si fanno sempre più violenti, accompagnati da lampi e fulmini. Come in una dissolvenza, la mia memoria mi riporta indietro nel tempo. Anno 1955. Sono alle manovre militari, attentato nella pineta di Ravenna, con il 105° gruppo di artiglieria. Il tempo è piovoso con il vento furioso che spezza i rami più deboli dei pini e le tende stesse pare non reggano a quella forza della natura. Entro nella mia tenda, unico rifugio possibile, sperando che tutto finisca al più presto. Con me c'è un mio collega, entrambi ci sdraiamo sulla branda a castello sino a quando giunge il sonno. Giunge il sonno che fuga quel timore che era subentrato in noi. A quell'età non soffrivo di insonnia. Mi svegliai all'alba con la tenda che sopra il mio viso aveva formato un pozzetto di acqua stagnante. Cautamente mi alzai evitando di toccare la sacca con le mani ed uscii. Il sole filtrava tra i rami dei pini ed il cielo era terso. Si annunciava una giornata meravigliosa. Questa introduzione mi porta ad un periodo della mia gioventù che mi è caro rimembrare. Ero un novello sottotenente e da Modena dopo 2 giorni partivo per il campo estivo, che sarebbe durato 45 giorni. Con noi rimanevano ancora gli ufficiali del corso precedente per una quindicina di giorni, ragion per cui i vari servizi erano molto diluiti. Al mattino si eseguivano le manovre, poi al pomeriggio dopo il pranzo nella grande tenda, esenti da servizi, attraversavamo a nuoto il canale ed andavamo alla spiaggia dei bagnanti. Io con due miei colleghi ero entrato in amicizia con un gruppo di studentesse inglesi e passavamo il pomeriggio cimentandoci nella loro lingua e scambiandoci giochi di carte ed altro. Questo Bengodi finì, metà ufficiali terminarono la loro ferma. Le ragazze partirono promettendoci che avremmo proseguito la nostra amicizia per via epistolare. I servizi si infittirono, ma tutto procedeva per il meglio. Si arrivò al periodo delle manovre a fuoco. Quattro semoventi furono dislocati più a nord, nella riserva. Quattro semoventi furono dislocati più a nord, nella riserva del conte Orsi Mangelli, con otto artiglieri, due sottufficiali ed io con un mio collega. Il mattino ci raggiungeva il resto del gruppo ed iniziavano i tiri sugli obiettivi mobili posti lato mare. Poi, terminati i tiri al poligono, il grosso tornava al campeggio e lo sparuto gruppetto rimaneva a guardia dei mezzi. Io, per alleggerire la permanenza isolata, con la jeep portavo alcuni militari a Ravenna in una balera popolare dove c'era la possibilità di far passare un paio d'ore con l'alternativa di incontri dell'altro sesso. Per alcuni giorni l'iniziativa ebbe successo. Poi, inaspettatamente, una sera non venne alcuno, eppure la sera successiva. Pensavo che l'interesse fosse scaduto, probabilmente perché gli incontri erano troppo fugaci. Una sera andai da solo per visitare la città. Lasciai la jeep e da piedi girovagai in lungo ed in largo, interessato, e dopo circa un'ora ritornai. E con mia grande meraviglia vidi in un recondito angolo del bosco due bracieri dove stavano arrostendo capi di selvaggina. Infatti questa nella riserva non mancava e loro, gli artiglieri, avevano fatto di necessità virtù. Al pomeriggio molti andavano sopra un ponte di barche che attraversava un ramo del Po e si esibivano in tuffi e acrobazie varie. Ad onore del vero mi ero esibito io per primo ed immediatamente molti seguirono l'esempio. Finito questo periodo iniziarono le manovre vere e proprie, con movimenti e spostamenti vari, boschi, greti di fiumi, piccole colline, ordini e via radio, in un vero gioco alla guerra, che era seguito e controllato da ufficiali arbitri, il cui giudizio assegnava la vittoria o la sconfitta dei vari reparti. Giungemmo alla fine di agosto, era tempo di ritornare, e così fu. Avevo aggiunto un'esperienza nuova alla mia vita, un periodo che avrei sempre ricordato con il passare degli anni. E così è stato. Bravo. Pozzano. Sì. Alessandra, una poesia. Questa è una poesia dedicata all'autunno della nostra città. Ma dovevo dire che allora noi vediamo la realtà con gli occhi della mente e del cuore, e anche se l'autunno è la mia stagione preferita perché si accende di colori la città, l'ho scritta in un momento doloroso per cui i colori sono sbiaditi. Autunno a Bolzano. Cerco invano i colori dell'autunno nelle foglie che danzano leggere nel tepido vento d'ottobre, negli squarci di cielo che occhieggiano fra le fronde, nei riflessi del sole che oggi splende limpido e discreto sulla città. Ma è un album di fotografie in bianco e nero che sfoglio vagando senza meta fra una folla senza volti. Foto sbiadite da un tempo fuggito troppo in fretta. È sempre troppo breve il tempo della felicità. Bolzano, città amata, vissuta, goduta, amica e complice, vestivi i colori della mia vita quando il mio arcobaleno dipingeva i nostri giorni. Ora ti osservo e ti vedo con gli occhi di una mente stanca e di un cuore ferito, e tu per me indossi la veste grigia della solitudine. Gasperini, Anna Maria. Thank you. rimango in piedi anch'io perché sono un tavo. Bravissima, l'ironia. Ricordo di un'infanzia felice. Tutti i venerdì santi mia madre soleva dire che le campane della chiesa volavano a Roma per tornare poi il giorno di Pasqua. Io ero ancora una bimbetta quando un anno mia madre, probabilmente molto impegnata per i preparativi del pranzo pasquale, mi disse: «Vai alla finestra grande, guarda fuori, forse vedrai le campane che volano a Roma. Ma devi avere pazienza e guardare bene, perché non si sa quando passano e poi sono velocissime». Oggi penso che questo invito era stato fatto per liberarsi un po' di me, che le stavo sempre d'attorno. A questo punto devo precisare che ero una bambina piccolina, gracilina, spesso malatina e un po' tontolina. Ero insomma una bambina tenuta un po' nella bambagia, ma obbligata ad una obbedienza assoluta come si usava a quei tempi. Detto ciò, devo aggiungere che ho trascorso la mia infanzia a Vienna e che la finestra grande, ai lati della quale si trovava una finestrella adunata, era incorporata in uno spazio come ce ne sono tanti in Alto Adige e dei quali si ha una vista a 180 gradi. Sarebbero gli sporti. Non ricordo quanto tempo rimasi con gli occhi fissati al cielo, passando da una finestrella all'altra. Ricordo solo che ad un certo punto, forse per effetto della mia fervida fantasia, forse perché ero stufa di guardare il cielo, o forse solo per vantarmi, corsi in cucina da mia madre per dirle che avevo visto le campane che volavano a Roma. Qui finisce il mio racconto ed un vivo ricordo. Vorrei solo aggiungere che pochi anni dopo, sempre nel mese di aprile e sempre da quel finestrone, vidi un mattino presto sfilare i soldati tedeschi, tutti della stessa altezza, tutti impeccabili nella loro divisa nera dai lucenti bottoni color argento, tutti con uguale passo marziale, tutti con un'espressione impenetrabile, tutti molto giovani ed orgogliosi di appartenere al grande Reich. Fu l'inizio della fine della mia felice infanzia. Fabri, hai visto le campane che volavano? L'ho unica. Che bella Fabris. Tempo. Il tempo. Il tempo è goccia, tante gocce della nostra vita. Gocce di acqua dolce, dissettante, attimi piacevoli, sereni, felici. Gocce di acqua amara, impregnate e segnate di dolore, tristezza, disperazione. Il tempo è la nostra pelle, solcata dal nostro vissuto, che giorno dopo giorno, come un cartografo, ha segnato il suo scorrere, rammentando il susseguirsi dei nostri giorni. Il tempo è la storia dell'uomo che dalla sua apparizione sulla terra ha lasciato traccia che non si cancella, ma che fiumane di generazioni in cammino hanno solcato una via da seguire. Il tempo è indelebile nei nostri ricordi, è sempre a guardia del nostro vivere, a ricordare le nostre sconfitte e le nostre conquiste. Il tempo è benevolo quando lo apprezziamo e lo accettiamo, utilizzandolo, frammentandolo, perché è prezioso da non perdere. È malevolo quando lo vediamo come un nemico, portatore di bruttezze e di brutture. Così ci inventiamo un modo per ingannarlo, con la chirurgia sia fisica che dell'anima. Ignari che sarà sempre lui come un vasaio a plasmarci. Importante è nel tempo lasciare le nostre radici e non smarrire quelle lasciate da chi ci ha preceduto, cercando di non scusate perché ci do anche poco di non smarrirle per non trovarci senza futuro e per lasciare ai nostri figli tempi migliori, sereni, di pace, senza angosce di una vita senza senso, senza storia, senza speranza, senza futuro. Il tempo esodo che inevitabilmente porta all'eternità, dove per taluni verrà accolto nella pienezza della vera vita, per altri finirà nel nulla, nell'oblio. Bello. C'è il paradiso. Fedeli Daniele. Ce la fai? Sì. In questa biblioteca ci sono stati vari pomeriggi dedicati ai profughi esuli istriani, ai quali ho partecipato, che ho conosciuto perché la mia mamma era nata a Pola e i suoi genitori sono venuti poi qui a Merano appunto dopo l'esodo. Allora io ricordo queste persone che ho tanto ammirato, che mi hanno lasciato un ricordo affettuoso, di cui varie si sono stabilite qui a Bolzano. E quindi i miei nonni. Dei nonni paterni non ricordo più nulla. Vivevano a Roma, che allora si raggiungeva dopo un viaggio lungo e scomodo in auto, prima dell'autosole. Di Franz Francesco e di Amalia invece ho dei ricordi più vividi, benché frammentari, perché dopo l'esodo dall'Istria si erano rifugiati a Merano, insieme alla primogenita Elfrida. Avevano dovuto abbandonare la loro terra, che non avrebbero mai più rivista, e un ingente patrimonio accumulato con l'attività commerciale e con lo stile di vita, confortevole ma molto meno esigente di quello attuale. A Pola, Franz Francesco gestiva l'unica concessionaria Fiat e Amalia ottenne nel 1911 la prima patente per auto concessa ad una donna. L'imperial regio governo trattava con rispetto la minoranza italiana. La patente infatti comprende una parte in italiano e un'altra trilingue, con bolli e aquila bicipite. C'è anche una fotografia che ritrae una signora con il capo avvolto in un velo antipolvere, trattenuto da un paio di occhialoni. A parte le molte eventuali uscite in auto, Amalia viveva nella sua grande casa, curando la cucina rigorosamente austriaca e quindi ignara di spaghetti e pizza anche dopo il 19, e il vasto giardino. Accoglieva ben contenta qualsiasi animale volesse stabilirsi da loro stabilmente o si posasse per poco lì vicino. Si favoleggiava a tal proposito di una cavalletta che non disdegnava qualche goccia di caffè, che era il Malto Kneipp, il caffè è stato conosciuto a casa nostra finché io non sono andata a Venezia a studiare, era una cosa inesistente. Se proprio doveva uscire, cominciava a vestirsi indossando il cappello, magari quello a larghe falde, con cui è ritratta sul passaporto italiano. Uno per l'interno, la piazza interna di Pola, e uno per l'estero, con cui non so esattamente che cosa si intendesse. Però due documenti interessanti da vedere. La mamma diceva che la loro casa era allegra, piena di giovani, armoniosa e priva di ansia per il futuro, che si sarebbe invece rivelato brutale e traumatico. L'hobby della nonna era creare un cinetto ornamenti di raffia colorata, grandi fiori da porre sulla cintura, oggetti per la casa ed anche sandaletti estivi con la suola costituita da una treccia arrotolata. Li ho indossati pure io, ma con un certo disagio. Le cinture invece le mettevo anche da adulta al mare, su abiti leggeri. Ero ancora giovane. A Merano, Franz Francesco, il nome era stato definitivamente naturalizzato dopo il 19, così come il cognome da Bisiak a Bisiani. Questo cognome Bisiak, per chi conosce la zona che sta, diciamo, vicino a Monfalcone, significava bis acque che sarebbero state il fiume Timavo, che è un fiume carsico che scorre. Allora delimitava dunque quella zona da praticamente il canalone cosiddetto che da Gorizia scende al mare e dove c'era stata il controllo degli alleati, che io mi ricordo fino appunto al 54, prima di imboccare la strada litoranea c'era una sbarra con gli alleati, noi andavamo a fare il bagno, bisognava fermare. Quindi a Monfalcone io ho fatto la gita a Trieste quando ho fatto la maturità, e abbiamo dovuto portare tutti la carta d'identità perché era all'estero. Esatto. E allora me ne è naturalizzato così come il cognome Bisiak Bisiani. Allora il nonno, benché ultra sessantenne, aveva aperto un negozio e nelle giornate freddissime metteva un foglio di carta fra giacca e vestito per isolare il petto. Soffriva infatti di bronchite asmatica. Non ho mai sentito un commento negativo sull'Austria. Anzi, si sa che l'acronimo PNF, cioè Partito Nazionale Fascista, a Trieste veniva interpretato come povero nostro Franz, che ha lasciato tanto rimpianto. Ancora oggi chi frequenta Trieste ha da divertirsi perché gli Asburgo sono tutt'altro che tramontati da lungo tempo. E li rimpiangono molto. Li rimpiangono molto, c'è la statua di Sisi subito uscendo dalla stazione, c'è anche andando a San Giusto, l'ho trovato interessantissimo, c'è un grande lampadario in stile nordico in ricordo di Massimiliano e del rapporto affettuoso che c'era stato fra la città, più il borgo teresiano costruito tutto in Miramare, quindi è Piazza Unità, quindi è una città totalmente diversa dai prototipi. I nonni hanno pagato un prezzo altissimo all'epoca in cui sono vissuti, ma senza perdere né una bonomia di fondo né la capacità di rallegrare una giornata qualsiasi, cercando qualcosa di buono in quello che era rimasto. Bene. Sono stata contenta di questa opportunità perché, come torno a dire, sono persone che ho ammirato moltissimo per la loro voglia di fare, per la dignità, per la laboriosità, per il non essersi persi d'animo in una situazione veramente tragica, perché parlo di persone che avevano 60 anni e che si sono trovate a perdere tutto assolutamente, e ciò nonostante sono riuscite a conservare intanto la voglia di fare e una certa piacevolezza del vivere. Grazie. Mia nonna è morta nel 64 a 94 anni, aspettando che tornasse l'Unser Kaiser a mettere a posto questa repubblica. Ad Arco di Trento. E ha sempre aspettato che tornasse l'Unser Kaiser, di cui c'era un ritratto gigantesco in salotto, per cui noi siamo vissuti sotto gli occhi dell'Unser Kaiser. Tedesco Maria. Quando le nuvole. Seduta sulla panchina, al limitare del bosco, mi godo il sole del tardo mattino. Ad occhi chiusi, aspiro il profumo dell'erba umida di rugiada. Ascolto il suono dei campanacci al collo delle mucche al pascolo. Questo è l'unico rumore intorno. La brezza fresca d'alta montagna mi accarezza il viso e l'anima. Riposo. Qui solo malghe con relative mucche e campanacci, qualche raro camminatore, tanti ciclisti, silenziosi e concentrati nello sforzo della salita. D'un tratto un'ombra si para davanti al sole. È un inizio d'estate strano, ogni giorno grosse nuvole e relativi acquazzoni mi impediscono di godere in pieno delle meraviglie che mi circondano. Cirri, cumuli, nembi, sono i nomi con cui gli esperti chiamano le formazioni nuvolose. Mi ricordo tanti anni fa, quando le nuvole le chiamavo con nomi diversi, anche nomi propri. Fu durante le torride estate in campagna dei nonni. L'aria immobile, calda, ti avvolgeva fino a toglierti il respiro. Il pomeriggio, Caterina ed io, amavamo rifugiarci tra gli ulivi sulla collinetta dietro la corte inondata dal sole. Lì c'era l'ombra e un leggerissimo alito di vento. Stavamo sdraiate sull'erba tagliata da poco, che pungeva la pelle attraverso la stoffa leggera dei nostri vestiti, nel profumo intenso del timo selvatico. La calda carezza dell'aria giocava sui nostri visi e con le foglie d'argento delle piante. Tra le chiome degli alberi sprazzi di un cielo azzurro-blu intenso, e lì aspettavamo le nuvole, che candide come zucchero filato puntualmente si formavano all'orizzonte. Le forme erano le più varie, cavalli e cavalieri, draghi, elefanti e un'infinità di altre cose, familiari e non, che pian piano si allungavano, si ingrossavano e poi si dissolvevano o si allontanavano nel cielo. Un giorno ci venne spontaneo di chiamarle per nome. «Guarda, Giustina ed Elisabetta!» E giù a ridere come due matte. Giustina era la nonna paterna di Caterina, secca secca, sempre vestita di nero, il viso serio. Elisabetta era la nonna materna, tonda tonda e sorridente, con grandi grembiuli e fiorellini colorati su fondo nero. Quando camminava sembrava rotolasse. Le due vecchiette litigavano sempre su tutto, non erano d'accordo mai su niente. Forse la convivenza forzata nella grande casa con nuora e genero e quattro nipoti le avevano rese così scontente. Guardammo l'evolversi delle nuvole, Giustina ed Elisabetta, fino a quando scomparirono ormai irriconoscibili all'orizzonte, mentre le cicale continuavano con il loro incessante e stressante frinire a farci compagnia, fino a quando la mamma o la mia nonna non ci chiamavano per la merenda o per sbrigare qualche lavoretto. Ogni tanto trovano un errore, ma la cosa non è importante perché queste cose non vengono corrette. Quando le pubblichiamo le lasciamo così come sono. L'unica cosa importante, lo dico sempre, è che mettano a posto i congiuntivi. Perché la mia mamma era una buona insegnante elementare, sosteneva che chi ammazza il congiuntivo poi è nella migliore condizione di spirito per ammazzare i propri parenti. Nessuno lo sa usare più i congiuntivi. I nostri adesso sono bravissimi. C'è tutti sti morti in giro. Bravo Marta. Ho promesso di leggere una piccola cosa, la leggo io come posso, di quell'edicolante che forse molti di voi conoscono, che è in via Roen. Manolo. Sono nato in una famiglia patriarcale composta da 18 figli, dove 12 erano maschi e 6 femmine. Sono nato un 25 di aprile del 1955, essendo il 11° figlio. Fin da bambino ho sempre lavorato per la casa della montagna, a 4.300 metri sul livello del mare. In Arequipa, seconda città più importante del Perù, situata a 2.335 metri sul livello del mare, ho studiato la quarta, la quinta e la sesta elementari. In vacanza andavo alla valle a dare una mano ai miei. Nella Valle Tambo, a 3 ore di macchina da Arequipa, ho studiato i 5 anni della secondaria. Mi sono laureato in scienze della matematica, dopo 6 anni di studio, in la Università Nazionale Sant'Agostino in Arequipa, Perù. Sono arrivato all'Italia per amore alla mia famiglia, lasciandomi lavoro come professore e consigliere. In Italia ho lavorato come operaio in una fabbrica di Bolzano. Poi ho studiato nella scuola di formazione sociale per la salute della provincia di Bolzano, lavorando come assistente sociale. Finalmente lavoro come edicolante in via Roen numero 20, Bolzano, conosciuta come Edicola Manolo. Adesso sto facendo un romanzo, un racconto che è la mia vita vissuta. E poi ho visto comparire Siglinde Taz. Borgogna, che l'altra volta non ha letto niente, ma a cui dedichiamo un pezzetto, sono 2 righe della sua estate quando ha cercato il sole per fare dipingere gli acquerelli. Io non mi ricordo niente. Brava. Anche se venivi nuda ero tranquillo, non ci preoccupiamo mica della mia. Il sole lo cerco sempre. Questo qua, guarda. Estate 2012, sì. Da tempo avevo intenzione di fare diverse acquerelle che avessero per soggetto il tramonto. Bianche, non ti corre mica di sole. Scusate, non capiamo niente. Lentamente, scusatemi, sì. Allora, adesso capisco cos'è. Da tempo avevo intenzione di fare diversi acquerelli che avessero per soggetto il tramonto. Ho trovato un appartamento a San Vincenzo in Toscana con una stupenda vista sul mare verso l'isola d'Elba, ripromettendomi di ammirare degli stupendi tramonti, memorie di quanto ho scritto il poeta Rimbaud. L'ho trovato. Che cosa? L'eternità. È il sole che si fonde col mare. Questi versi li ho riportati sulla scultura funebre in memoria di mio marito. Ecco perché l'avevo fatto, non mi ricordavo più. Arriverà la sera, il colore e la carta erano a portata di mano. Mi sono incantata ad osservare una splendida luna piena, pensando con entusiasmo al tramonto che avrei potuto ammirare l'indomani. Ma nei giorni seguenti lo spettacolo del tramonto non si è voluto svelare i miei occhi, ahimè. Ho visto solo onde grosse, lampi, vento e tempesta. Il sole tra le nuvole non si faceva vedere. Però ho visto altre cose, i bambini che correvano lungo la spiaggia, ambulanti che vendevano aquiloni che garrivano. Garrivano? Sì, sì, va bene. Qualche duro me l'aiuta, corretto. Sempre a posto con garrivano. Garrivano al vento. Solamente l'ultimo giorno ho visto un pallido sole e mi sono subito precipitata a fermarlo sulla carta, dipingendo i suoi deboli raggi con qualche nuvola. Gli uccelli che passavano nel cielo e per un attimo il sole e il cielo si sono colorati di rosso, e io, sapendo che la mattina seguente sarei dovuto partire, ho lasciato libero la mia fantasia, ho dipinto uno dei tramonti, visto l'isola d'Elba, assieme a mio marito, nel lontano 1964. Quanti ricordi di quel tempo! Allora fu l'unica volta che il libro l'ho il tango con me. E poi, sulla nostra piccola 600, al ritorno verso l'albergo, incontrammo un asino messo attraverso la strada che dormiva profondamente e con fatica l'abbiamo svegliato e spostato perché ci facesse passare. E mia intenzione di esporre i bozzetti seguiti a San Vincenzo nell'entrata dell'ospedale di Bolzano nel 2013. Marzo del 2013, destinato il ricavato in beneficenza. Ecco, grazie. Confesso che l'ho presa in contropiede, ma era giusto farlo. Ce lo ricordi, vero, quando sarà? Sì, sì, già stato. E adesso conclude la parte così di prosa Rita Chini. E poi leggeremo qualche poesia e così la serata si concluderà con questo, con la gioia delle poesie. Ecco. Però se ci mettono ufficiali io non posso fare rileggere quello dell'altra volta, abbiate pazienza perché... Sì, ma è bello. Ma era bello. Dai. No. Allora. Però vi regalo tre bei versi. Sentite questi versi bellissimi di un notaio siciliano del 1200, Jacopo Danettini, vissuto sotto il dominio di Federico II. Voce. Sì. Maravigliosamente un amor mi distringe e tienemi ogni ora. Qualche filologo sicilianizza a ritroso e legge ognura siciliano al posto del fiorentino ogni ora. Ma insomma capiamo che si tratta di ogni ora, sempre, in ogni momento, con la meraviglia e la tenacia e lo stupore che ogni amore ha sempre per noi, perché ci tiene e ci costringe. È stata la letteratura italiana a unificare la nazione, ben prima e più profondamente dell'unificazione politica. L'unificazione politica invece per gli italiani venne tardi, alla fine dell'Ottocento, e tardissimo per i trentini, che passarono senza troppi scossoni dai loro vescovi conti all'impero austro-ungarico, e rimasero legati all'Austria fino alla fine della Prima Guerra Mondiale. Quella guerra li aveva visti su fronti diversi, gli uni coi padroni tedeschi, gli altri, ma ovviamente molti di meno, perché opporsi è sempre più scomodo che piegarsi, e una delle virtù trentine è, od era, la capacità, maturata nei secoli e nelle campagne, di tacere il dissenso, o comunque non esibirlo. Gli altri, dunque, dissenzienti, fuggirono nelle file dell'esercito italiano, come fecero Cesare Battisti, trentino, Fabio Filzi, roveretano, Damiano Chiesa, dalmata. Furono catturati dagli austriaci, probabilmente traditi da compatrioti, e processati nel Palazzo del Buon Consiglio, l'antica dimora del principe vescovo Bernardo Clesio, che i suoi compatrioti di adesso chiamano insensatamente Bernardo Cles, degradando il latino vescovile principesco a un linguaggio da caserma. Ehi tu Bergamo, avanti dai Napoli! Raccolgo solo qualche memoria personale, cercando per quanto possibile che sia autentica. Mio padre, che conosceva ed amava la storia del Risorgimento senza mitizzarla, mi raccontava che a Trento era rimasta viva la memoria dei tre patrioti condannati a morte, che erano stati fatti portare su un carro attraverso la città, in catene per pubblico ludibrio, in mezzo alla gente che taceva o urlava insulti. Filzi e Chiesa distrutti e spaventati. Cesare Battisti con un profilo ardito e un atteggiamento di sfida nel volto. Eppure a casa aveva moglie e figlie piccole, che dopo hanno sempre cercato di opporsi alle varie ed indebite appropriazioni politiche degli anni e delle parti che seguirono. Come sempre mi prende in contropiede e siccome mi lamentavo che non mi consegnava mai i lavori perché doveva limarli, rifinirli ed altro, mi ha portato addirittura il suo ed è una cosa di una memoria trentina che varrebbe la pena di scorrere tutta, perché ci sono storie vere ed è proprio la storia quella che lei ci racconta. E quindi le sono grata, ma nello stesso tempo mi vergogno di aver tanto insistito perché tu scrivessi. No, è che ho perso delle cose, scusatemi, ma insomma adesso così, giusto austriacanti, ma mi è parso che si dovesse. No, ma nasceva per dispetto a me la cosa, quando citavo appunto per pluralismo questa mia nonna, che è morta sognando, e per cui in casa nostra, nel lessico familiare, quando diciamo Repubblica significa grande confusione, cioè quando i letti sono da rifare, le stanze sono in disordine, eccetera, è una Repubblica. Quindi il lessico familiare a volte parla per quello che noi non vorremmo dire o sottacciamo. Se avete un po' di pazienza, ma mi farebbe tanto piacere che le ascoltaste, poche poesie ancora, e sono schipilliti di nuovo. Ne hanno scritte moltissime, una più bella dell'altra. Io ho dovuto scegliere, ho lasciato scegliere a loro, ma comunque io godo di tutta questa produzione. Finalmente la luce. È nata la sua nipotina, questa è dedicata alla piccola. È tarda la sera, il cielo è stellato. Una luna piena brilla su ciò che è natura. Un guscio si apre, viene al mondo una vita, irrompendo il silenzio con innocenti vagiti. Sono inni alla vita, finalmente alla luce. Le ansie, le attese, come campane annunciano il nascere di un giorno alla festa, alla vita. E tu, Valentina, nasci tra i nostri sorrisi e lacrime di gioia. Ciò che troverai non sarà un mondo incantato, però in lui ci puoi stare. Di nuovo angelosi. Perché si esibiscono variamente in prosa e in poesia. Sono bravissime. Sì, no, ma tutte queste cose sono scritte in pochi mesi, ci vediamo due volte al mese. Quindi grazie. Sono proprio brava. Tenerezza d'amore. la vestaglia di seta adagiata sulla sua poltrona. Lei più in là mi guarda, seduta come ogni mattina, lo sguardo assente. Un raggio di sole gioca coi suoi capelli. La malattia ha portato via la sua memoria, smarrita nel suo mondo perduto. Mentre il mio sguardo tenero la segue, lei mi osserva, forse senza vedermi. Ricordi festosi, lontani, avvolgono un silenzio struggente. Rivivo i nostri primi palpiti d'amore, celati da un velo di malinconia. Mi mancano i complici suoi sguardi, il suo sorriso di sempre. Mi alzo, con mano tremante accarezzo i suoi grigi capelli. Cerco il suo sguardo. I suoi occhi profondi mi scrutano. Per un attimo mi sembra ritrovare la nostra spensierata giovinezza. Quasi per non dispiacerle, fingo inconsciamente di essere felice, stringendola come una volta teneramente al petto. E vedo che ne resta sgomenta. Qualcosa palpita dentro di lei. La sua mano indugia sul mio viso, in una carezza. Mi illudo, mentre la sua voce, un po' smarrita, mi chiede: chi sei tu? Lacerandomi il cuore. Gianni. Posso cambiare anch'io? Sì, sì, ti lascio cambiare poesia. Un attimo eterno. Mi hai portato sulle vette più vicine al cielo, a respirare l'aria degli dèi, a trovare colori, profumi e sapori sconosciuti. Mi hai insegnato a prendere e a dare, a lasciarmi andare e a lasciare andare, come in un gioco di onde che sempre si ritirano, per tornare ogni volta con fragore più intenso. Hai fermato il mio correre nel pulsare della vita, nell'attimo in cui i nostri occhi si sono incontrati. Il tempo si è fermato in quel momento e la dimensione del sogno si è materializzata. Mi hai guidato tenendomi per mano, in un mondo ideale, senza tu né io, entrambi annullati l'uno nell'altra, a creare un'entità perfetta che abita da allora la mia anima. E nulla di ciò che potrà accadere e qualsiasi cosa possa cambiare non turberà la consapevolezza dell'estasi, che è e sarà comunque e per sempre nostra, perché abbraccia gli estremi dell'infinito e non si accontenta di nulla di meno dell'eternità. Ed è così che con un bacio mi hai donato l'immortalità. Alessandra. Questa non è autobiografica, è un regalo che ho voluto fare a una ragazza che è stata catapultata per motivi di famiglia da una bellissima isola greca ad un paese qui nostro, e voleva riuscire ad esprimere i suoi sentimenti, la sua nostalgia per la terra che aveva lasciato. La nostalgia di Nausicaa. È un cammino la vita. Sostenuta da braccia amorose, ho mosso i primi passi nell'incanto di un'isola. Spaziava il mio sguardo, lontano, dove cielo e mare si congiungono all'orizzonte, e inseguivo le bianche vele sognando viaggi e avventure di fiaba. Pareti di pietra ora fermano il mio sguardo e frenano la mia fantasia. Non più orizzonti lontani e immense distese d'azzurro, ma squarci di cielo racchiusi fra alte catene di monti. Non più sogni consegnati alla brezza del mare, ma progetti che la vita mi impone. E mi chiedo chi sono. Io sono un albero, i cui rami ondeggiano nel vento di una terra ancora sconosciuta, ma le cui grandi e inestricabili radici affondano nelle viscere della mia isola, che ha forgiato per sempre la mia identità di donna libera e sognatrice, nonostante il destino mi abbia condotta tanto lontano. Maria, un attimo ancora. Dopo queste prestazioni. Le nostre prestazioni sono tutte belle. Amo l'aria di Bolzano. Quando i primi raggi di sole baciano i tetti e le piazze vuote. Quando il silenzio è rotto solo dai passi veloci dei pochi viandanti e dal tubare di piccioni innamorati vicino alla fontana. Quando, avviandomi verso le strette vie ancora in penombra, mi corrono incontro, lievi e sereni, i ricordi della mia infanzia. Capite così il regalo che io ricevo ogni volta quando questi amici leggono le loro cose. Quindi sono grata a tutti loro che hanno scritto e che mi mettono a parte dei loro sentimenti, dei loro affetti. Bello. Qualcosa dei suoi scritti? No. Egoista. Un applauso anche alla professoressa. E grazie infinite dell'ospitalità, grazie per questo pomeriggio magnifico che penso abbiate passato. Bello, bello, bello. Grazie.